adesso per pagarsi la cagà. E buona vita. Guarda che lì dentro c'è sta una che sta per morire. Non me frega un cazzo. Cimitero, stronzo!